Orecchie e Libri, un podcast originale per ascoltare la voce, i suoni della storia, il timbro della società nelle pubblicazioni di edizioni Pagina 1. Parliamo di Edith Wharton. Pagina 1 ha pubblicato due raccolte di racconti, Triangoli Perfetti nel 2018 e La Seconda Occasione nel 2020. È il 21 gennaio 1862 quando Edith Newbolt Jones nasce a New York da una ricca famiglia conservatrice. Non frequenta le scuole pubbliche, avrà istruttori privati. A 23 anni si sposa il banchiere Edward Robbins Wharton, da cui si separerà dopo nemmeno 10 anni di matrimonio e da cui poi divorzia nel 1913. Nei primi anni del XIX secolo si trasferisce in Francia. Conosce Henry James, che la spronerà a coltivare le sue doti di scrittrice. Muore nell'estate del 1937, lasciandoci una quarantina di opere, tra romanzi e raccolte di racconti, e anche suo il saggio Scrivere narrativa. Tra i romanzi alcuni hanno avuto la loro trasposizione cinematografica. Nelle mani di Scorsese c'è L'età dell'innocenza del 1993, con attori del calibro di Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer e Winona Ryder. Liam Neeson è stato protagonista invece del film tratto da Ethan Frome, sempre del 1993. Quindi Edith Wharton, la sua vita, 1862-1937. Quindi Edith Wharton attraversa un'epoca molto dinamica per gli Stati Uniti e per il mondo in generale. La fase della ricostruzione, soprattutto per gli Stati del Sud dopo la Civil War, la guerra civile, la seconda rivoluzione industriale, la prima guerra mondiale, la rovinosa discesa verso la Grande Depressione. Dei racconti di cui parleremo in questa e nella prossima puntata del podcast per edizioni Pagina 1, la Wharton mostra, e con che maestria e acume, devo dire, personaggi appartenenti a quella che Mark Twain nel 1873 ha chiamato Gilded Age, o Età dell'Oro. L'autrice si scaglia feroce, con livore lucido, contro le convenzioni tribali che caratterizzano l'alta borghesia e l'aristocrazia americana. Quest'ultima peraltro è costituita da Swells, i nuovi arricchiti, e i nobs, i vecchi nobili in genere di tradizione europea. Si tratta nel complesso di una boule danarosa e che trova nella fiorente industria dei trasporti, delle comunicazioni, dell'urbanizzazione, della meccanizzazione, dell'agricoltura, nella moda e nella pubblicità, con sostegno e collusione della classe dirigente con cui si embrica, una possibilità di sviluppo in termini di potere economico, politico e morale. Sviluppo che, ricordiamo, non è sinonimo di progresso, come già ci diceva Pasolini in Scritti Corsari. È dunque una classe che naviga sulle spalle di quella operaia, della classe dei braccianti, dei migranti, della piccola borghesia, di tutti coloro che sono elusivamente appagati dalle narrazioni di prospettive di crescita, aumento dei salari, l'automobile, terreni nuovi da coltivare nell'Ovest. Si tratta di gente che vive nel lusso sfrenato perché un'altrettanto esuberante povertà si sporca le mani fuori dai loro salotti, dai circoli, dalle sale da ballo. Muri che si chiudono su stucchi ridescenti di arte, oggetti preziosi, tessuti ricamati, acconciature e volti imbellettati, menti sostanzialmente poco illuminate. Ma vediamo cosa ha da dirci di questa umanità Edith Wharton nella raccolta La Seconda Occasione. Una breve nota introduttiva sulla raccolta è d'obbligo, ascoltatori. Tre racconti la costituiscono: Otto Thames, tradotto da Daniela Magni, Anime in ritardo, tradotto a quattro mani da Sabrina Campolongo e Rossella Ventura, la quale è traduttrice anche di Pienezza di vita. Il volume che vi propongo ha un suo valore aggiunto, come molti volumi pubblicati da Pagina 1, in particolare nella collana Il Bosco di Latte, la bella ed esaustiva postfazione di Sabrina Campolongo. Peraltro Sabrina Campolongo ha curato lei stessa l'edizione ed è lei stessa autrice per Pagina 1 di romanzi ed è anche docente di traduzione. Avremo modo di parlare anche di lei nelle puntate successive di questo podcast dedicato alle pubblicazioni di pagina 1, edizione. Peraltro, nella postfazione viene celebrato proprio in virtù dei dogmi morali, della rigidità gerarchica, della cecità per l'umano e l'alterità contro cui si arroventa la penna della Wharton, il coraggio della stessa autrice. Lei che svela le sue eroine drammatiche, costretta a uno scontro frontale contro le bieche e maligne convenzioni della società bene, ma direi bene tra moltissime virgolette. L'autrice prende coraggio, interroga le sue protagoniste su quanto siano lanciate da un impulso che è puro sentimento e quanto siano altrettanto frenate da una condanna e da una punizione. Che vuol dire esclusione, isolamento, esilio, che se stesse arrivano addirittura a concepire come unica via di sopravvivenza, anche per non rinunciare a un certo bel mondo. Edith Wharton ci parla di un hotel anglo-americano alla moda per consegnarci la sua misera convenzionale umanità. Una massa rilucente che irradia le sue vivide suggestioni di ordine sociale, la lista degli invitati, servizi religiosi e blandi interrogatori alla table d'hôte. Basta leggerla per leggere la realtà, insomma. E ci dice: era il tipo di società in cui dopo cena le donne confrontavano i costi esorbitanti dell'istruzione dei figli e concordavano sul fatto che, tanto più con le nuove tasse sugli abiti francesi, alla fine era più economico acquistare ogni cosa da Wharf, mentre i mariti, fumando i loro sigari, lamentavano la corruzione civica e convenivano che solo uomini che non avevano interessi privati in gioco fossero adatti ad avviarne la riforma. Ricordo che siamo nell'epoca in cui nascono i trust e le holding negli Stati Uniti. Tabacco, petrolio, ferrovie. Ma l'autrice non si limita a dipingere, fa proprio un action painting dei caratteri, delle psicologie, dei conflitti che animano i cuori delle sue signore. E se riusciamo a non farci trasportare, trascinare dalla bella e magnifica prosa, vediamo che ogni rossore, ogni sguardo è protagonista del suo momento, è portatore di azione narrativa. Siamo sollecitati ad affannarci per toccare la punta dell'iceberg insieme all'autrice, la punta di un vulcano, raggiungere quel cratere dell'animo da cui sono pronti a scoppiare disperazione, colpa, autocondanna, pietà, rinuncia. La seconda occasione c'è sempre, è lì, pronta ad essere colta, eppure, e arriviamo nel terzo racconto, peraltro, l'autrice ci introduce in medias res nella seconda occasione della sua protagonista. Ed è lì, sembra coglierla in un dialogo introspettivo con lo spirito della vita. Ma poi nel concreto, cos'è? Più confortante l'attesa di stivali che cigolano, disturbanti? O varrà la pena fare una scelta che sia altra? Bisogna leggerlo per scoprirlo. L'occasione nuova non è sempre il piatto che la protagonista trova alla fine più appetibile, che le consentirà di trovare rifugio e pace. Spesso, peraltro, tra i protagonisti emerge una distanza morale, psicologica. Ma perché? Perché la distanza è il riflesso di una morale che si fonda sull'ipocrisia, che nega di svelare le proprie falle e quindi i flussi relazionali per forza tacciono, non trovano parole e quindi silenzio. E vediamo ad esempio nel secondo racconto Lydia e Gannett che stanno condividendo una fuga, un progetto di vita insieme, ma ciò che lo rende possibile e che li libererebbe è ciò che in realtà non fa che rammentare loro l'errore, che sancisce la loro colpa, o meglio, la colpa di Lydia. Affrontare l'ufficializzazione del divorzio, quella lettera che sta lì sulla cappelliera, in cui l'ex marito di Lydia le concede di divorziare, potrebbe uccidere l'amore verso Gannett. oppure effettivamente consentirà la pace ai sensi di Lydia. Ma Lydia, col nuovo uomo con Gannet, ha già imparato a riconoscere i suoi silenzi, ha imparato a distinguerli. E proprio all'inizio del loro viaggio riesce ad avvertire in realtà nel silenzio del compagno un ronzio di parole a cui i suoi pensieri non potevano che rispondere affannati. Quindi affanno e rincorsa, un doveroso leitmotiv per queste donne lontane dall'emancipazione, invischiate nel noblesse oblige. Se il matrimonio, un buon matrimonio all'epoca rappresenta tutto, e lo leggiamo ad esempio in un altro racconto della Wharton, la zitella, se il matrimonio appunto potrebbe esaudire la pace, il divorzio per contro è occasione per il mondo di scagliarsi e di scagliare il suo anatema contro la fuggiasca, una fuggiasca che spesso è proprio costretta alla latitanza. Ma se continuiamo a seguire le vicende di Lydia, quindi siamo nel secondo racconto della raccolta, quello intitolato Anime in ritardo, è per la donna stessa che il divorzio diventa un'arma a doppio taglio. Liberazione sì, ma si apre una seconda occasione che automaticamente si fa vox media, perché di fatto necessita di un altro uomo, di un ritorno ad essere oggetto donato all'uomo. Questo oggetto, la donna, che si costituisce nel suo valore semplicemente in base alla mano che lo agguanta. E quindi la Wharton di questo matrimonio alla fine cosa ci dice? Peraltro, la sua esperienza personale non sembra averla aiutata nel giudizio o in un giudizio positivo. Edith Wharton, sempre molto onesta con i suoi lettori, rigorosa e autentica, ci dice attraverso Lydia che il matrimonio non ha fatto sì che Lydia abbia potuto illudersi. Il matrimonio aveva fatto sì che lei avesse semplicemente accettato che appunto il matrimonio rappresentasse un completo annullamento delle sue rivalse nei confronti della vita, lo aveva accettato come un risarcimento temporaneo. Quindi il matrimonio, ce lo descrive all'epoca, come un volgare imbroglio della società. Serve fare di due un unico di comuni doveri, sopportazioni e abnegazioni. L'amore non c'entra. Un legame di noiade di passione, è una cerimonia intesa nella sua astratta sacralità. È velo sul desiderio, è la catena della paura perché l'altro non fuga. È ciò che permette decoro al tempo. Quanto in poche parole Edith Wharton riesce a parlarci, a dirci molto. Se andiamo al primo racconto, Other Thames, la signora Lidcombe, vittima di un'epoca piuttosa di quella che vive la figlia Leia, figlia che può scegliere di incarnare un modello comunque approvato e accettato di donna pur cambiando uomo, cambiando marito, ma la signora Lidcote, dalla figlia stessa, dal presunto amico Hyde, viene forzata a rimanere nascosta per ciò che ha compiuto. Il consiglio è di rimanere celata nella sua antica vergogna, che ha segnato dunque per lei una condanna senza appello. Molto bello in questi tre racconti come i contorni degli alleati e degli antagonisti, dell'eroe o dell'eroina, sfumino. Alleati e antagonisti si avvicendano e si passano il testimone, appartengono in fondo alla stessa sfera etica. Ogni momento è buono semplicemente per rivelare una superiorità morale, che è immanente, una superiorità morale che l'autrice ci presenta come presunta, aleatoria. Ma il branco, la società, diventa motivo di ricatto e addirittura diventa motivo di rinuncia al sé. Il guadagno è facile ma corrotto. Si arriva alla fine ad ottenere la stessa visione ristretta della vita, la stessa moralità del resta al tuo posto, le stesse caute virtù e i piccoli spaventosi vizi. La prosa generalmente è colorata e arricchita di correlativi oggettivi che si stagliano nell'immaginazione del lettore come materia tangibile. Rose e gelsomini che appassiscono come il sentimento, luci e ombre dei pensieri che basta una tendina di svelare. Nulla, però, di edulcorato. Il velo di garza pitturata si stracciava, era tornata a muoversi entro i tristi confini della realtà, ci dice Edith Wharton della signora Lidcombe. E lui con cui queste donne hanno a che fare? Comodi. Comodi nei loro divani di setoso patriarcato. Demandano, si rassegnano, esprimono riluttanza, ma non dissenso. Si compiacciono nel compromesso riuscito. Per loro un'altra occasione arriva. Tutto sta nel giocare la giusta carta speculativa. Comprendono pietosamente. Dallo scranno non giudicano. Colgono i frutti del basso. Ma dunque, per concludere questa prima puntata, che società ci consegna Edith Wharton? Cos'erano gli Stati Uniti e molto probabilmente anche l'Europa? Che sono quelle società che hanno preparato la società in cui viviamo oggi? Un'altra autrice pubblicata da Edizioni Pagina 1, Alice Riva, non ci dipinge una società molto diversa da quella di Edith Wharton. È una società troppo impegnata a rivedere i propri pregiudizi. Per citare la signora Lidcott, una società che ricorda le azioni compiute all'epoca in cui sono state compiute e condannate, che compila un indice di casi passati in giudicato e archiviati. Evitare l'errore, chi sbaglia diventa tradizione. E le tradizioni, cito letteralmente a questo punto, che hanno perso significato sono tra tutte le più difficili da smantellare. Un caro saluto da Elisabetta Groppo per Edizioni Pagina 1.